Io spero che tra le tante esibizioni televisive di esponenti della maggioranza vecchia, di quella nuova, di quella probabile, di quella che non si sa, che hanno caratterizzato la settimana scorsa, non vi siate lasciati sfuggire quel del Cavaliere in persona sugli schermi della sua prediletta Rete 4 mercoledì 18 in seconda serata, perché è stata senza dubbio la più sensazionale di tutte. E non perché l'onorevole Berlusconi abbia detto qualcosa di particolarmente eclatante o l'abbia detto in modo più interessante del solito, ha detto le cose che dice sempre con le stesse cadenze, le stesse mossette, le stesse modalità espressive, che probabilmente sono le sole che un uomo di plastica come lui conosca e si possa permettere. Neanche l'occasione era particolarmente insolita e solenne. Quel giorno, mercoledì scorso, dopo aver arringato l'assemblea dei deputati realisti del Popolo della Libertà, il Cavaliere ha tenuto la solita conferenza stampa, di cui tutti i telegiornali in serata hanno ampiamente riferito, ovviamente per squarci. E i servizi giornalistici della Rete 4, come loro costume, l'hanno mandata in integrale. Nel che non c'è niente di strano, siamo in un paese libero, almeno in teoria, se qualcuno vuole mandare in onda una conferenza stampa integrale, nessuno glielo può impedire, contenti loro, contenti tutti. Ma in questo caso, e in questo sta l'interesse della trasmissione, in questo caso i giornalisti ammessi alla presenza dell'intervistato, ammessi all'augusta presenza, sono stati stranamente cassati. La conferenza stampa è andata in onda senza le domande. E per il poco che ne ho visto vi assicuro che è uno spettacolo strano ma di grandissimo interesse, perché Berlusconi, sempre inesorabilmente in primo piano, sempre con gli occhi fissi nella macchina come gli hanno insegnato di fare, si rivolgeva con l'abituale cortesia a degli interlocutori assenti, parlava al vuoto, diceva mi consenta al nulla, cominciava la sua domanda giunge davvero a puntino perché mi permette di dire chi, senza che nessuno sapesse quale domanda gli era stata fatta. E quando aveva finito di dire che, sullo schermo passava una specie di riga bianca e lui era di nuovo lì a fissare la telecamera e a riprendere senza neanche una pausa. Effettivamente, come lei mi fa notare, la situazione è difficile, oppure capisco quanto lei intende dire, ma converrà anche lei che... E continuava dicendo le solite cose, che le camere politicamente non contano un cazzo, che Scalfaro gli ha promesso solennemente le elezioni l'11 giugno, che con Bossi non vuole avere più niente a che fare, che bisogna andare a votare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, visto che l'ex presidente del Consiglio si dichiarava d'accordo con tutti i suoi invisibili interlocutori, ho il vago sospetto che quella non fosse in realtà una trasmissione integrale, che fosse un montaggio di risposte a certe domande gradite, che giornalisticamente non è bello, ma lasciamo pure perdere. Il problema è un altro. Io non so per quale motivo, se siano state cause tecniche, mancanza di spazio nel palinsesto, volontà d'ossequio a tutti i costi, non lo so perché quella redazione abbia deciso di adottare quella forma insolita, ma il risultato era veramente istruttivo. Perché vedendo il Berlusconi parlare al nulla e rispondere al nulla, o meglio, parlare e rispondere esclusivamente a se stesso in una specie di psicodramma in cui ricorrevano ossessivamente soltanto le sue certezze politiche, senza neanche il disturbo di un interlocutore, uno capiva immediatamente quale fosse il suo punto di vista sugli affari del mondo. Lui non ha bisogno di domande perché le sue risposte comunque sarebbero sempre quelle. Non ha bisogno di interlocutori, perché francamente di quello che può dire un altro non gli interessa assolutamente nulla. E vedendo l'intento in quella sorta di soliloquio virtuale, si capiva benissimo che, per quanto abbia dichiarato di volersi dedicare agli affari pubblici, gli unici affari che a lui interessano sono esclusivamente i suoi. Sempre mangi, mangi e parli a bocca piena della vita degli altri come fosse la tua, e finisce che parli della mia vita